vicini a pezzo nudo. Io sono in montagna a pezzo nudo. Ma io metto calzoncini perché se viene qualcuno devi andare a aprire. Se sei a pezzo nudo è un coso, ma se sei montagna, andare. Già, io con il mio vicino stiamo tutti le montagne. Ci affacciamo, parliamo, sempre montagne. Ci affacciamo ieri, sempre montagne, siamo qui. Qua. Bubu. Allora io chiamavo El Mutanda. Se riesci, no, oggi c'è quel costume, spero fuori, sdraiato nell'erba, stava così bene, ma mi spiace a Bari, e c'è il caldo. E la piscina avviata! Ordinata è ancora nella vita, vabbè già c'è tempo, tanto se ne andrei a piazzarmela. Ma non ce l'avevi via la piscina? Monte Oro. No, pensavo che la dovessero riempire, boh. No, no, no, cosa nuova. Questa nuova, quella che fa per te. Ma che ora è fatta? Dicevo, cerca mille. Cappa. Alice, riprenditela. Ma sogno. Cosa volete che vi dica? Boh. Se mi faccio un po' di spazio, mi ero in attesa, devo sistemare un apparecchio grande, così lo mettiamo a posto. Con questo qua mi viene mai bene a fare riparazioni come prima, perché posso spostare, posso fargli le tarature al coso, senza frequenzimetro normale, proprio al micro, basta avere un po' di udito e fare la tarattura in trasmissione. Non ma con quello lo puoi fare a vero la tarattura a maracchino, per essere che sia perfetto. Cioè è perfetto. Provata col digitale, è perfetto. Decimale 00. Perfetta con la radio. Perfetta, perfetta, veramente, cazzo. Non mi ricordavo neanche che era così perfetta c'è la radio. L'ho provata 5 anni fa, ma l'ho trovata veramente prima. Vabbè, è bello però quando delle cose ti vengono ridate in ottime condizioni. Adesso non c'è un graffio con la radio, non c'è proprio un graffio, lo metto in tabù, non appoggiare niente sopra, possibilmente copriro se devi fare qualche lavoro, perché se si graffia è un peccato, che è nuova nuova. No, che l'ho spostato da noi, trovo un'altra parte. Hai capito? Qui nel tavolo mi faccio le riparazioni, però il resto l'apparecchio rimane dove c'è la scrivania. Se te lo ricordi che quando lavoravo alla Prospero usavo il 70 di là, con la Grand Plane. Era l'unico modo per poter sistemare i telefoni di quelli cordless, col 70. Quindi lo usavo di là in laboratorio, rimaneva sempre lì che poi a casa già c'avevo il coso, il 2009. Io già me lo ricordo. Andavè. Natalino. Uia, dimmi. Come è entrato questo tapparetta, ragazzi? Tocca tapparetta, per il Vella, Magna Bosco, Citrino. Chi se deve essere ancora la Marina, la faccia nostra? Alla Marina di Sorso, ecco la protezione, quel cuoco, ma sempre col cacciavite nel braccio. Avanti, break! È la prima che sta chiamando. E ha fatto un break ma non mi sente, non ho risposto. No, che non arrivi nulla. Io ho sentito break, ma ammasso però. Ah, lupo grigio, chiamalo. Sempre. Attenzione, lupo grigio, tu sei. Lupo grigio, mi ascolti, cambio. Secondo me è Carlo in bicicletta. Si sente parlare di bicicletta, ragazzi. Ma l'ho portato via da Roma Nubrio. E lì chi c'era fuori sempre l'antenna, ragazzi, sa fare un guru. Ma c'è il boss, capito? Non lo tiene mai. Sì, ho capito, ma c'è l'antenna sollevata. E lì chi c'era fuori sempre l'antenna e luci. Dai, che già va bene. Ah, scusa, ti fa una magnifica che gli attacchi dietro dove c'è il... c'è il coso, il cestinetto, il ragazzo è dove c'è la batteria. Io nello scooter non l'avevo messo, non te lo ricordi. Avevo tolto il mauletto che c'era dietro, ho lasciato praticamente la staffa dove si mette il mauletto e sulla staffa ci ho messo l'antenna magnetica che usciva l'acqua alta stanno parlando. E tu poi abbiamo fatto quegli esperimenti, ma così è pericoloso già. Cazzo, c'è l'antenna davanti. Sono cose un po' strane, capito, per chi le vede, già si girano quando vedono l'antenna mia, si girano tutti qua a guardarla. Io vabbè, sono curiosi. Non peraltro, sono curiosi. Perché quando mi ricordo Giuseppino Corsiadoro, se l'avete conosciuto, c'aveva un Formentanus, c'aveva l'antenna 2,75 m dietro, quelle grandi grandi a mollone. Quando valeggiava la lasciava lunga lunga, che non potevi stare dietro perché dal vento ti toccava, ti faceva Gengo, c'eri in moto in bicicletta. E invece quando non la usava la radio la piegava, la agganciava. E non sai che una volta i carabinieri a Santa Teresa che hanno fermato e hanno detto che l'antenna era pericolosa, che bisognava mettere il gancio e agganciarla perché poteva andare addosso alle altre macchine. È pericoloso, lo si può usare, ci sono delle misure, ma si può usare. Hai mai visto tu l'esercito, le antenne dell'esercito che rimangono piegate, agganciate? Non si possono usare, è legge. Ci sono delle misure particolari per poter usare in macchina le antenne, capito? Non è che tu un'antenna da 2,75 e ti metti a camminare a 120 all'ora, cazzo, tocca a terra dietro. La mia è abbastanza rigida l'antenna, non piega, non piega, è rigida. Vincenzo, Giuseppino Corsiadoro, Bartolomeo Tisiele, che c'era la stessa macchina di Giuseppino con la stessa antenna, poi chi c'era? C'era Fortunato, che c'aveva l'Alfetta, che c'aveva l'antenna lo stesso grande, c'erano tutti dietro nella coda, capito? Allora si poteva usare, ma là non si può più trattare, sulla cappotta la puoi mettere, ma dietro no, così lunga. Claudio, a te, a Daniele Radio Spillo, col drone, bombardando le 45. Allora c'era lì, si splatta, che sono intendente. E adesso faccio lì a farmi due giri, là. Gappa, gappa, gappa, non pompa su drone, ciu ciu. Amato, che ne vai? C'è Daniele, ma un bestia, te. 700 watt, che ti va, ventolo. Ma quella radio non è che sto a delineare, Alessio, come hai detto tu, perché pensandoci bene stavo parlando normalmente e Claudio mi diceva che uscivo tutto gracchiante, che non era più la stessa radio, eccetera, eccetera, e piano piano si è andato a uscire. Cosa? Ho parecchio io, te lo ricordi che stavo uscendo male di radio, stavo gracchiando la radio, che tu dici che la radio non è più la stessa, sta uscendo male, te lo ricordi? Esatto. Già, io le cose te le ho sempre dette in faccia, sempre. Tu con quel Galaxy era la miglior radio in assoluto che ho sentito nel 27, non ce n'era per nessuno. Bella, chiara, forte, con un leggero eco, proprio leggero, fortissima, molto bella. Poi è iniziata a calare, è iniziata a saturare, a non essere più, non aveva cortesità, non aveva niente, piano piano si farà dal fumo. Ma secondo me quello lì, o è successo qualcosa di RF, non lo so. No, claro, quando tu me lo dicevi non era attaccato, non è questo di RF. Poi praticamente stavate parlando, dico che ho mancato l'audio, non sentivo più a nessuno, come se non ci avesse antenna. E vabbè, comunque se l'hai portata lì, stai pur certo già te la fa, con calma, ma già te la fa, dal bravo, ma qualche riparazione me l'aveva fatta e ce l'ho ancora, tipo l'alimentatore, il PS50, ma l'ha messa a posto lui, ho pagato una trentina di euro, capite, il fumo l'aveva crepato, non l'aveva messa a posto, perciò già va bene. E quando c'è la formatazione, c'è un tecnico, non è uno che lo fa di uscire in brancio, è un tecnico, quindi sa dove mettere le mani. Bella, speriamo bene, perché quella è una radio che a me piace, e se no non l'avrei portata manco a aggiustare, per me mi piace come radio, capito? Mi è sempre piaciuta quella radio lì. Io già ti ho detto, se quella radio te la devi tenere che ti piace, e so che ti piace, portala da un tecnico e fatela riparare, chiudi gli occhi, non guardare quanto spendi e te la tiri, basta, appunto, basta, ma non è fatta. Marina, Roberti del Palle, a Mattugialla e ai Fascialla ancora di più. Sono un tecnico per fare cose già, io sono sempre contrario a queste cose. Te l'ho detto, è successo a me. Entro 820H si è fatto da rovumo, ricezione e trasmissione, capute, non erano i finali, non erano i finali, si è interrotta la scheda di trasmissione, perché tutta scheda è quella radio, VHF, VHF base, che costa una barca di soldi, capito? Nuova, comprata nuova, mi diceva scatola, c'è tu nuova, nuova. Si è fatta da rovumo. L'ho data a una persona competente, ma non competente di più, però con tutta la sua buona volontà non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta perché toccava una parte e si interrompeva l'altra, capite? Quindi era una cosa un po' che non andava bene. Alla fine ho detto, boh, lasciala così, molla, chiudi, l'ho mandata al centro assistenza ICOM e mi hanno rifatta nuova, anche magari a 280 euro più 20 di trasporto, 200 euro. Se si spiega la radio e che fanno davvero la radio, scoprono un'interruzione nella parte del ricetrasmettitore, perché è il cuore della radio, adesso non ricordo già tutto, che ha cambiato, ma era andato tutto a casino, tutto, non ci aveva né ricezione né trasmissione né potenza, niente, però al finale non avevano niente, era proprio un tutto circuito tappato, ha cambiato la scheda intera, non so se, non mi ricordo come si chiama quella scheda, comunque, tutta la scheda intera, tutta riallineata, tutta rimessa a posto, già, la radio è un base, VHF, VHF, con le bande laterali, 100 watt, sta scherzando, con una batteria di su, proprio display, bellissima come la radio, l'ho comprata nuova, e quindi ho detto, ma perché comprarne un'altra, ci spendo molto meno, la faccio riparare, nuova la radio. L'ho fatto così, non la sono tenuta. Me la tengo, poi ci guidano. Stavo facendo un cambio, mi aggiungendo soldi per prendermi una superiore. Alla fine non l'ho fatto, non la sono tenuta. Sì, ma poi la mia non è mai stata toccata, capito? È nuova, nuova, detto, c'ha il trasformatore lucido, proprio casa nuova. Ti stai dicendo che non è stato mai toccato nulla, tutto quanto legato, i fili tutti ben messi. Non è mai stata toccata, capito? L'unica cosa che c'è adesso è che ha fatto questo problema. Ma speriamo di risolverlo, perché ci tengo la radio. Io ammiro anche la persona che me la sta facendo, perché ci ha perso un po' di tempo e purtroppo se non c'hai gli strumenti, queste cose qua, puoi andare a orecchio o cosa, ma però se non c'hai gli strumenti, se non ce ne sa fare, se non ti va bene una cosa non puoi cercare qual è, capito? Tu pensi magari che sia quello, lo cambi e via, perché è bruciato, ma magari c'è qualche altra cosa che ha fatto bruciare quello. E così è successo a me, no, quello è, ho portato io gli strumenti cellulari, ma e neanche professionali, però il fatto è che riparavi una cosa ce n'era un'altra, capito? La perdita di tempo, alla fine basta, adesso è messa a posto, non c'è problema, ma quello già se solo lo mette le mani, anche troppo per conto mio. Avanti Massimiliano, sei andato nel 45. Chiacchierone, mi hai fatto perdere tempo, adesso sei un mezz'anni, ciao! Certo, già, mi sono indicato, perdonami, vai che sono meno 10. Aspetto, bicicletta. Beh, sapete già vi dico. Adesso vado fuori, al sole, fumiamo una sigaretta e abbiamo una berretta. Dai, ci sentiamo dopo. Allora, fai pulizia lì, metti bene quella radio, se non ti spero il capocollo. È quello che sto facendo adesso. Sto cominciando a fare spazio e buttarci un bel po' di quella roba che non funziona, già la povero. È mondezzaia, mettete l'acqua. Cioè, funziona, non me ne posso. L'unica cosa mi ricordo sono gli altoparlanti, che quelli funzionano ancora. No, ti prendo una cassetta che ce n'è sempre sotto l'Andrea, di cartone, ti metti la roba che può servire per mettere il cambio, per recuperare, fare tutto dentro una cassetta come ho fatto io, ben messa, e liberi tutta quella sincronia. E lì ti metti i 140 con i microfoni che ti servono, capito? E basta. E boh, hai spazio. Hai spazio. E ti rubi tutto. Perché qui c'è più ordinato e più pulito. La roba che non ti serve a tirare avanti, la roba che ti serve la metti dentro la cassetta. Non così tutto sopra il tavolo, perché è disordinato e ti può creare problemi alla modulazione, come ti crea, perché vedi che fa rientro. E anche l'antenna che si è partita comunque si fa rientro, la cava la pesca. Secondo me la butto giù e me la metto nel terrazzino, me la metto così, perché mi fa rientro, mi fa. E allora l'altra volta prima l'ho messa in alternativa, funzionava bene, adesso come vedo non venne lunga con l'antenna, ma capisco perché adesso partenza è piazzata bene, non è piazzata niente male, però siccome a stessa altezza della mantova tocca a distanza, quindi rifà da riflessa, domani la tolgo e faccio la prova immediatamente, prima però mi faccio spazio di qui, perché devo fare la riparazione di un apparecchio grande, quindi mi serve per forza. Una volta finita quella riparazione, fatta la taratura, allora prendo e salgo sopra il tetto 5 minuti, mi svizzo con la chiave 13, esce fuori dall'antenna e ce la metto nel terrazzino, così la tengo lì, di riserva. Va bene, non c'è problema. Babbo, dai, comunque veramente complimenti, sta riuscendo benissimo, molto molto bene. Finalmente sentiamo Antonella molto pronta, grazie a Dio, anche con l'altra esce bene, ma lì cambia di Dio. Sì, bello, bello pulito, senza rumori, senza niente, segnalone, alla grande, finalmente. Dai, ci aggiorniamo dopo, Antonella, la fra una sigaretta, ok? E io, va bene, a dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Le mue, le mue, che ti amo. Ehi, è bello. Ehi. Luca. Le mue, le mue, che te. Ui, ui, ui. Alla parte mi dice, lo comprende. Dalla matrice, cazzo. Domani vado al compareggio con l'intensivo la spina. Di furia c'era Daniele, ma va. Sì, sì, sì. è un bel casino, cazzo, oggi già due sere che non abbiamo fatto manco una bombola. Ma si può. Questo è un brutto segno. È un brutto segno, sì. Non è bella la cosa. Cazzo, però i pagamenti arrivano tutti i dì. Cazzo, ci sono bisogno dei pagamenti, siamo noi. No, non è possibile continuare così, cavolo. Cioè, siamo diventati scienze di capo. Poi, cazzo, ma qua arrivi la roba, si trova niente. E ti ne affutti. Ma qua non si sta lavorando. Pazienza. Vediamo se cambia qualcosa, se vuoi ti dico. Allora, partiamo domani a lavorare, almeno un po'. Andiamo, andiamo, che sei io! Beh, il capo ha aperto la vetta, no, raga, dinchi così. Cosa, il capo tuo? No, non ti preoccupare, è già in lavorazione, già lo facciamo nuovo, teniamo i scorte. Gappa, gappa, il tuo bene sta andando, l'altro giorno ero con Roberto e stavamo parlando con la maschera, quello che ce l'ha fatto. È che non si intende. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Gappa, gappa. Gappa. Ah, già si intende. Ah, no, questo già va bene, la verità va più che bene qua. E la ghita giù. Questa vita mi risposa, sai? Come ti vorrei? Per la risposa, te. Quanto ti vorrei? Scusa, via. Sì, non vedo ci da quei buoghi. Cazzo, mica tocca che ne avevo da ridire, ma vero me lo. Cazzo, non c'è niente buca mari. Oggi ho visto questa signora... che se la vedete vi spaventate con me, praticamente c'ha la bocca tutta storta, poi c'ha praticamente qua nel collo la pelle che gli scende, non c'è qualche tumore, c'è sicuramente, se la vedete vi spaventate, se la vedo vi faccio lo screenshot e ve lo mando, da, guarda, incredibile. Mamma mia, vabbè, lascia perdere. Dai ragazzi, io vado a mangiare che non ho ancora mangiato, ci sentiamo, baci e abbracci a tutti, ciao Antu. Ciao Cla, mi senti che fare qualche festa, qualcosa, io le faccio, ok? Va bene, non ti preoccupare, se sento qualcosa già ti avviso, ciao. Cappa, ok, ciao ciao, sto dicendo un po' a tutti. Aspettate, mi stavo mandando una registrazione. Vediamo. Poi ci mi ha mandato un messaggio all'assistente, quella che prende gli appunti, del dentista. Cazzo, devo andare dopo domani a fare il lavoro. Me l'ha rimandato perché c'è il tecnico che il fratello sta male. Tutti lo acciappo, cazzo. Tutto il tempo mi sono fatto i biglietti. Però sempre domandami di nato. Basta da via, piano piano, pure tu. E ormai ne ha già via un bel. Cosa vuol dire un bel? Magari travagliare sempre chissà. Speriamo che ce la facciano sistemare tutto, almeno non posso partire, già dalla prossima settimana sto già cercando locali, roba, la fa serata. Sì, aspetta un attimo che stanno l'audio, aspetta. C'è bisogno di travagliare. E vabbè Antu, adesso ti devi mettere a imparare adesso Antu. Se cazzo c'è, non te che tu fai la serata, lo sai fare, sì, sei poi in casini, invece tu come adesso ti eserciti quando hai tempo libero e così fai le prove, e se no è un casino, me. Non è facile, mi Antu, cioè non è che sia difficile, ma non è manco facile farlo. Cosa che ha già avuto le cose? L'ho scaricato, ho già avuto i midi. L'hai scaricato? Ho scaricato la musica. Però adesso devo capire come sistemarla. No, ma lo sto imparando subito perché anche da Costantino lo sto maneggiando, ho capito. Non lo so. Che mai fatti in casini, la regolazione dei microfoni, c'è tutte queste cose. Poi se ti dico di darmi poco di eco, poco di volume. Tu c'è anche un mixer, un bel grande, lo sai usare il mixer, tutto lo sai usare. No, ma che se non mi devi di nulla, ma che se non è un problema. Sono io che vado a correggerle molte volte, a anche quando sono d'accordo. No, quello non mi devi dire niente, quello già lo so io cosa devo fare. Quello già. Non ce n'è problemi per quello, capito? Era solo il problema del computer, boh, finito. E quello già lo so io cosa devo fare, quanto mi devo dare di microfonia, già lo so. Riesco a vedere, ci voglio, riesco a vedere. Beh, non te lo dia già, roba mia, non ti preoccupare. Meno male che non sei Angela quando canti, cazzo, con quell'eco. Cazzo, Barry, quando tu vai l'apparecchio con l'eco, uguale. Allora, già è vero, con il 4000, ho usato un eco, uguale. Anzi, forse c'è meglio di quell'eco lì anche. Guarda, io ti scommetto che la scheda della LEM, ce lo scommetto. A te non te lo so dire. Come mi ascolti? Sto usando il 140, Andro. Una bomba. Microfono normale. Andiamo bene, andiamo, che ti diavolo! Ebbè, pompo. Ebbè, Luca. Coccomale, sì, vero. Eia, coccomale. Bello, e cappa c'ha? Sì, l'ho preso stamattina. Bello, cos'è, 440? 140. Bello, bello, ci bene. Microfono normale. No, va bene, a voglia. Va bene, va bene. Che raga, ma a me è bello 140, io l'ho avuto, il mio era nuovo di pacca. Ma se devo dire nuovo, l'unica pecca è dove tu aumenti il watt. Solo lì poco a poco, questo ci aveva prima con l'unghia. Ma del resto era nuovo, se devo dire nuovo. Quando l'ho venduto, questo tipo di abitava vicino a Olbia, che è venuto qua a Sassari a prenderselo, è rimasta bocca aperta, non ci credo. Non me l'aspettavo una rete così nuova. Sono appresa occhi chiusi. Sì, già lo credo che l'ha presa a occhi chiusi. Ieri abbiamo dato i saluti, coso? Ma... la voglio di tuo fratello, tramite Giampiero, quello che lavora qua, come si chiama, dice che è il suo suocero, mi ha detto. Dice, quello che c'è qui, quel ragazzo che c'è qua al rifornitore. No, non ho capito, chi ti ha mandato i saluti? Principessa mi ha mandato i saluti tramite Giampiero, in pratica ha detto che è sua suocera. Giampiero? Sì, quello che lavora qua al rifornitore alla Kuwait. Non si chiama Giampiero, si chiama Pasquale. Ah, vabbè, Pasquale, giusto, Pasquale. Già, giusto. Mi c'è fidanzato con Roberto. Bianco un attimo, ti ascoltavo dei messaggi, un attimo. Cappa. Andà bene. Ma entrava in radio. Io me la ricordo questa principessa, un po' di anni fa. Sì, che andava in radio. Andava in radio principessa, la sorella Teresa e poi, che sarebbe l'ex... moglie di Franco, California, dopodiché l'altra non me lo ricordo come si chiama, erano tre sorelle, comunque poi c'era una parte il fratello, lì abitavano in via di Vecetà. Ah, ho capito. Cappa, già te lo ricordi. Ma non è proprio in via di Vecetà, è l'altra via, c'è una cosa, c'è, aspetta, c'è una ringo piegata, c'è in quella via, mi sembra che era ad angolo, se non mi ricordo male, angolo via non visita, non mi ricordo che via è proprio esatto, però mutavano da lì. L'antenna era attaccata e c'è ancora, è proprio pigiata, è attaccata, è una ringo attaccata sopra l'antenna del televisore. Io la dico, non ci scendo al centro storico, lì è pieno di antenne, ci sono le Mantova, c'è la Super M di Marcello, quello che fa il vecchio, tutta piegata a un fianco era, e ancora non è crollato, quindi figurati, dice Franco Marcello per certezza. No, la Super M di quello lì è ancora a posto. E piegata era un periodo, tanto tempo fa, poi se l'ha sistemata meglio così. Io me la ricordo che era piegata proprio. E ora di. Il mio confidante, cioè io vedo la punta da qua, di quell'antenna. Ah, ho capito. Cappa, se fa vedo io, e vado a patrugliere e smettere. C'è anche padre Francesco lì che è vicino dove sei tu, lì nell'aria. Poi cosa? Una ragazza che mi ha battuto troppo fa insieme al marito, che adesso non mi viene in mente il nome. È pieno di antenne lì al centro storico, pieno. E chi è questa qua? Cioè, ce ne, io ne vedo una che la vedo da quando ho perso in Corso Trinità, la vedo, una mantova. Corso Trinità, già ho capito, ma non mi viene in mente il nome, come si chiama il baracchino. È un bel po' di tempo che non entra adesso. L'antenna c'è sempre a posto, però non è proprio, si vede da lì. Devo entrare in via delle muraglie e andare un pochettino più giù, l'altra via non me la ricordo cos'è. Comunque lì questa antenna. Vabbè, poi c'è quella di via di Anolando che è via Sozzo all'inizio. Qui c'è la via. L'antenna non me la ricordo. Poi ce n'è una che quella che ti ho detto, quella che ti sta cantabeggiata. È lì dove metto tu, però cazzo, adesso non mi viene la via bene, prima te la sapevo, e proprio si entra in piazza d'università lì, è lì vicino, non piazza d'università, no, cazzo, non mi ricordo adesso. C'è anche un'antenna, vicino alle poste lì al centro storico, proprio alle poste centrali, un pochettino più avanti, c'è un'antenna di baracchino lì. Quella è di cosa? Di Zanza. L'ex padrone che è morto di una radio privata che avevano tutti e due fratelli. Ah, ma durava pure lui. Ma è campato poco. Se no due anni, non di più, poi ci è arrivato un fuggito. Perché? Sì, perché sembrava il santone, sembrava. E allora a un certo punto tutti quanti lo obbligavano il barogullo e se ne è fuggito. Ah, e l'antenna è rimasta sempre. Sì, l'antenna ce l'ha, c'è anche i dipoli della radio privata che ci avevano tutti i due fratelli, uno è morto, l'altro è vivo, mi sembra è fisio, mi pare che è vivo ancora. Ah sì, tu stai dicendo, sì, aspetta, tu stai dicendo lì in via Coso, vaffanculo, in via Gambella. Via Gambella, esatto. C'è l'altra la macchina, non l'ho mai vista lì sopra. Ce l'aveva la macchina, l'aveva piazzata. È entrato uno o due anni, non di più, dopodiché è fuggito. Come? Per comprare un pericolo. Mi sembrava quando entrava a baracchino sembrava, come ti posso dire, tutto sapeva lui. A un certo punto si sono fatti tutti usare le mani da gaga. Come entrava, lo faceva da pezzi, dopo di che è sparito. No, io mi frequenta non c'entro più. Vabbè. La gente già per la gente esagerata anche se sta in via. Ma se sentivi allora parlare a baracchino, la cosa allucinante, ti scendevano le palle in terra, cazzo, tutto sapeva lui. Cazzo, io ero. Vabbè, che ha fatto lì da prima, il fratello, ma cazzo, mamma mia. Già lo so. Ma chi dei fratelli? Il fisio o l'altro? Il fisio ha fatto il coso. Aspetta un attimo il telefono. Capo. Sono intanto arrivato a questo magistrale di coso, cazzo, mamma mia, cazzo. E cosa vuoi, Antonio? Ti arrivavo a questo magistrale, 2.70, poi... vai, cioè... ti chiamano, siccome c'è parte la segreteria telefonica, li chiami, cazzo, e in pratica risulta il numero non è raggiungibile oppure non esiste. E quindi è un casino, cazzo. Poi Per carità, ogni giorno chiamami. Questa quattro volte mi ha chiamato bene, a me. Mamma mia, almeno una volta a settimana. Sì, Andrea, si ammazza. E a me non sono manco venti. Non so. Se mi sembra un culo appena appena va a scoprire che non è così. Oh, yeah. La verità non l'ho mai vista, vabbè, forse una palazzina un po' alta, non l'ho mai vista quell'antenna io sopra, boh. C'è, c'è, ci dovrebbe essere ancora l'antenna di sopra il tetto, perché me la ricordo che c'era, a parte i tipi che c'aveva per la stazione radio, comunque c'era anche l'antenna del baracchino. E cosa è? Radio, cavolo si chiamava, non mi viene in mente il nome. Ah, Radio Antenna 2000. No, che antenna, già la conosco che Radio Antenna 2000 era. Che antenna è quella che c'è sul tetto? Mi sembra che aveva una Gran Play o una cosa del genere. Ah, ecco. E già in quelle vecchie già reggevano. Ah, quelle di una volta le Gran Play già ripiegate domani col vento, cioè. Metà alluminio, metà vecchio resina, quelle non le trovi più in commercio, a meno che non trovi qualche vecchio CB che ce l'abbia buttata a casa sua e te la via. Quelle già reggevano anche 20 anni, mi. Io uso antenne in giro, secondo me se gli attacchi il PL funzionano ancora. Sì. Ah, gli antenne sono state piene, il problema è adesso con 110% basta che vai in qualche palazzina, li chiedi chi è il padrone, se il padrone non gliene frega più niente, prendi, sali su e ti viene bene anche attaccarla, non sono d'altro. Sì, te la porti via, dato per dire. Non so, io quella mantova che c'è lì vicino, in via Canalis, in quella zona lì, cazzo, chi sa già aveva una di in Kiwi? Ce ne sono antenne che sono, diciamo, 25-30 anni, cioè, manco le ha piegato, manco lo stivo, non sono d'altro. A chi era limone? Quello sì, quello può dire forte. Era un'antenna come si deve, quella una volta. Quella è carità. Aspetta un attimo. E via. Se non già appena, chissi, lui ha uccidato a cazzo di durare 30 anni la tragabicchiuria. Facciamo un giro qui. La strada è piena di antenne di barchi. Lì anche a Lunessione vecchia mette un sacco, ce ne so. Qualcuno addirittura dopo 30 anni le ancora attende. Quello già è vero. Qua vicino a casa mia c'è un'antenna da pesca piazzata sopra la farmacia di Masa, vale. Non l'hai vista? Di Masa? L'ho vista, chissà che sarebbe. A primo piano, non so, poi c'è un'altra che è nelle due palazzine più giù di questo. C'è un'altra che è un'antenna fatta a canale a pesca di colore nero. Ma sarà per altre bande sicuramente. Boh, io non ho mai sentito questi, la verità. Mai. Sì, è una roba radioamatoriale, boh. Sì, magari fanno ascolto, o parlano tra loro, c'è un bel gente che se ne fanno i canali bassi in voi, ma come sappiamo noi, a modulare, magari gli amici, capito, si mettono d'accordo, si piazzano l'antenna e parlano tra loro, nei canali bassi, una volta facevano così, sai quante coppiette trovavi tu che posso usare il telefono, si piazzava nel baracchino e mi sentivi facendo la modalità ancora da baracchino. Vabbè, altri tempi erano. E i canti culturali hanno il biliardo, muro, non tutto niente da uno all'altro. E io non è parlare a me, cazzo, ogni colpo di rizzito, mamma mia. E lo circondato, cazzo. Tutti i giorni. Avevo uno a 50 metri da me. poi l'altra che modulava in cose, abbiamo il signor Saba che parlava baracchino lo stesso. Modulava lei e la sorella, quindi ne avevo due attaccati. Dopodiché c'era in via Napoli, la buona di Maggio Giuseppe Venatre, che abitava in via Marsiglia, poi c'era di altre, a parte quella di Mattone che c'era alla fine, che parlava in 10 metri e mi faceva abbattimento con l'ultimo le tre. Quando un pompugno si rompeva le scatole attaccava un po' di bottenza, allora era loro che doveva spegnere. E se non è bombolaio quello che c'è via Todatti, giusto che fa vado da lì. Sentivo questi colpi, cazzo, ma che cazzo è? Non è possibile, detto, che io prenda colpi da così di. Ah, non aveva lui con linea attaccato. Ci aveva un lineare da 500 watt agganciato lì insieme a Saturno, ecco, e io ci sono andato e l'aiuto un cosa, mi ha detto che con la gente, ho detto se no ho preferito di parlare con i tuoi dipendenti, gli ho detto due sono le cose, io abito detto via Rizzetto. E detto io mi compro di linea da 600 e poi vediamo come fai a farti portare le bombole, gli ho detto. E l'abbiamo detto, detto. Vabbè, se loro non mi sentono, mi ha detto, capito? Ma a me se non ti sentono non me ne fai proprio niente, gli ho detto. Stai rubando a me, gli ho detto, io capisco che tu vuoi lavorare, però siamo vicini. Stacca la lineare, gli ho detto. Poi a parte quello, se te lo trovano, ho detto ti fanno un nuovo nuovo, e poi non è passato molto tempo, quanto mi ricordo io, dopo 6-7 mesi, hai visto che mi aveva staccato l'antenna da sopra al tetto, e il Saturneco non ce l'aveva più, non c'aveva più niente, avevano sequestrato tutto l'escopo, e in più avevano messo anche la multa. Però vi già vedeva la mantola, un'altra gabbiciuria. Ma non è la mantola per la 27 quella, è per l'alta frequenza, per il 43. Già adesso un po' più corta rimane. Esatto, sì, infatti è un po' più corta. Poi lì a Coso, dove c'è la Fiat, c'è la antenna di 43. Piazzata. Io avevo chiesto io, no, e tu sei stato un ecco, me l'hanno sequestrato, me l'hanno, e tu perché tu fai il foglio di sequestro e te lo riprendi, te lo vendi, tu marcia la BRQ, guarda, se fosse stato io il padrone se era andato, ho detto, me l'avrei fatto il foglio di sequestro, me l'avrei venduto, gli ho detto, a me l'avrei recuperato i soldi. E poi il sequestro, ti stavo dicendo, come bisogna farlo? Scusa, devi andare via al posto e compilare un foglio e tramite l'avvocato e ti fa il foglio di sequestro. L'apparecchiatura entrati e caratini tu, hai capito? A casa, l'apparecchio. Non lo puoi usare, però lo puoi tenere tu dentro casa. Da poi, se uno se lo prende, ti stavo dicendo. E quindi, adesso mi pare più cosa ti vorrei dire. Non sapevo che si poteva fare. Io ho fatto fare a Mario Mans, riuscito a recuperare quasi tutto. Si avevano tenuto solamente un 271 canali con la scheda di 45 metri. Tutto il resto avevo tutto tornato. Capito? Ha vinto la causa, tramite l'avvocato. Gli hanno consegnato il pacco tutto intero, con tutti gli apparecchi dentro. Dice questo, dice dovrebbe tornare lei, gli ha detto, poi una volta che ha vinto la sentenza può rimetterci gli apparecchi e dice fuori e li può di nuovo utilizzare. Che fate, ce l'hai sposti in casa sua? Sì, ma non è trattendo. Non è stata usata, non è stata usata nulla perché gli avevano sparato l'antenna. Poi anche di graziato. non ce n'ha più posto. No, non ha più messo. Metto un giorno a me, dice, quando è che ci stavi a mettere la mazza? Sì, così sparerà meglio, adesso. Faccio una fila d'uccello io. No, non ci fanno niente. Glielo fanno dopo. No, non subito. Il palo è alto 6 metri, più davanti va. C'aveva l'antenna della VHF piazzata in un fianco e di poi dei 45 metri va via, 3 carate. Poi tutti gli apparecchi giù, con il commutatore dell'antenna per commutare, eccetera, eccetera. E ancora c'era a casa sua, nel casazzino c'era, messi dentro un coso, un mobile, tutto in fila. Dopo c'era una piazza del Ticchio, o se ricordi un indomani, un viso migliore, che va. Andiamo bene, andiamo a Catania, magari se ricordi da Davide, non lo so. Ebbè Luca. Sì, aspetta, cosa un paio di messaggi audio poi li prendo. Via. Marco, che cavolo. Comunque è un peccato la galli così, apparecchi, tutti lampade. Già lo so, c'è stato un eco, c'è 140, 440, 430, un summer camp grande, poi c'è un ESCO 4005 e altri vari apparecchi che sono, non mi viene in mente la marca. Comunque già ne apparecchi a olio. Chi è che compro tutto io? Chi è? Mario Manse, che ce l'ha messa lì nell'armadio. Compro tutto, compro. E c'era tu, non gliel'ha chiesto se gli veniva la roba, ha detto che non veniva nulla. No, anche a Davi ho trovato, ma il tuo babbo ce l'ha sempre, quello si tocca, l'ha detto. Vabbè. Pazienza, volevo sollevare la torre, ecco, invece cazzo non si può sollevare più niente, vabbè. Vabbè, Antonello, mettici vecchio il microfono normale, cazzo di nato, eh? Lasci messi. Non ho mai usato il microfono normale con la radio. Esce veramente molto bene. Bello, chiaro, forte. KK. Sempre lo stesso livello, toccato nulla. 30 watt di portante, 50 di picco. Bello, ma poi vediamo quanto arrivi, pompo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma cazzo gli segnali che fai? Sei in mezzo tra il più e il 3, del più 30. Non di 9,30, era 9,20 prima. Bello, sì, è bello 140, Quello che non funziona lo square, ci siamo messi di guglione, non vuoi che finisci più cazzo di Claudio. Infatti io qui dice lo square, adesso non lo anch'io. Se no, non mi dà fastidio, capito? Comunque lo scotch in FM funziona, è solo la M che non agisce, ma non te ne deve molta. E adesso io, Antonè, con quell'apparecchio quando ti arrivo il segnale? 9 più 20, sì. E io pompo, guarda un po'. Appena più sopra di lui, ma poca roba. Più sotto o più sopra? Più sopra. Poca roba però, Cazzo, io sono con 3 watt. Non so se è preciso quello strumento, Antonio. Ma preciso una cosa allucinante. Non so capire, mi sono accorto. Infatti lo uso per quello, per fare la temperatura degli apparecchi. Se lo sento di quello è un casino, capito? Se no per cosa che mi aveva pensato la canola a pesca sopra il tetto, per potersi sistemare il Saturno, ecco, che aveva le balle piene, tenendolo così, con quello Smith che aveva dei problemi, poi cosa cazzo era il trimmer di merda era. La roba tolta, lì stampati, la roba seconda mano è difettosa. E mi ha fottito, cazzo, non riuscivo a capire cosa diavolo era. Ti dovete metterci e provo a regolarlo, cazzo, come ho regolato, sono detto, ha detto tu sei brutto finocchio, cazzo, io ho un mese preso a te. Ho fatto la regolazione da un apparecchio all'altro e era perfetto. Da quel giorno lì era preciso. Prima fa passaggiare a Falcone, Barolo, Antonio. Questa era radio scaldano, anche io faccio passaggi corti da 140, scaldami, c'è l'avvento la polarizzazione orizzontale, non è come 440 e 430 che ce l'hanno dietro. KK, comunque Antone, dopo Roberto e Carlo c'è diventato terzo. Sì, 9+25, abbondante, ottima radio, va bene, no, non c'è bisogno di toccarlo, quello è regolato a caldo, te l'ho regolato io e la potenza di Asagushi, sinora Gribbi, non c'è bisogno, quando c'hai 30 watt, 50, 70 modulati, tu sei a posto. E io adesso un po' aumentato, se guarda adesso 1, 2, 3, prova, che ho già detto che c'è vite, ho levato il tappo, l'ho aumentato un po', un po'. 9,25, sì. E via, 9,25, però Antonello è sempre più alto. Sono io di quella zona, forse quello un po' più. No, tu così, senza amplificatore, perdi con Luca e con Antonello, perché sono più alti di te. Senza che l'amplificatore, non lo so. Luca con l'amplificatore è 9,25. Proviamo, non c'è problema. No, io sto parlando di su, non qua. No, su, in deposito. No. Non ce n'è per nessuno lì, no. Scappa. Pompa forte lì. Adesso mi si è guastato l'apparecchio, se no guai. Ma che adesso mi arriva forte Antonio, Cla. Una scopettata, Allora, a casa sua, cazzo, io non devo arrivare forte. Voi vabbè siete vicini, ma qua mica arrivare qua Antonio arriva 9+15, mi così adesso, come adesso. Cazzo, quando attacca arriva 9,25, quante temi da casa sua. Poi non contiamo da deposito, lì giù, con 4 watt arrivi 9,30. Sì, no, dico da su, da dove lavora, arriva benissimo qua, ma è forte. Io lo vedo, figurati qua, gappa gappa. No, Antonello c'ha una bellissima radio, credetemi, si è scioccato stamattina, ha toccato anche nuova. Nuova, lucida, perfetta, era la mia quella radio, capito? L'ho ritirata perché era la mia, se no io non la ritiro Mondetta, assolutamente no. Assolutamente no, e Mondetta non ne voglio, quella è la mia, gliel'ho data 5 anni fa e me l'ha restituita, gliel'ho praticamente venduta io e gliel'ho rivenduta adesso a Antonello, ma me l'ha data in condizioni veramente belle, belle belle. Deve portare un MC60 che devo dare a una persona che si è dimenticato di darmela, ce l'ha 5 anni, era il mio lo stesso, cazzo è più nuovo di quando glielo ho dato. Hola, hola, hola chico. E ciao vedi. Cazzo Luca che non attacca è un demonio. E aspetta. Il suo di Benoncetto a trattarlo. Ma non è tutto male, no? Guarda, Anto. Ehi, dimmi. Ancora è freddo. Guarda, l'avevo già se lo ricorda. Quando usavo il 680 io mettevo il 680 a 5 watt. Poi prendevo, attaccavo il BV2001, ma tu dovevi vedere al vero come lo facevo quello. Che poco bomba, ragazzi. Già me lo ricordo, Santo. Minchia quanto bomba. Non ce n'era per nessuno, poi quando dovevo mettere a portata non c'era nessun bisogno, bastava a me che mettevo il portante fissa in banda laterale e poi facevo dice non ti sento, gli faceva quello che c'era a 200 metri da casa sua, sento questo qui, li sento. Cazzo, me lo ricordo poco, mamma mia come sto. Ah, io Anto, facci sognare, fai la prova con Luca a vedere l'Antonello, a vedere chi passa. Passa. Ugari, la massa dell'aria. Qua a vedere io. Ancora non è caldo però, Com'è? Ma adesso di segnale com'è? Antonello, io ricontrollo Antonello prima. Antonello, com'è da te? 9 e 21. KK, non è caldo, no? Che tra ammalaggio ci deve niente. Anche qua non è il tuo segnale, Antonello, devi arrivare a 9 e 25 qua. KK. Guarda che ti nesciano i rocci. Vai che sta salendo, com'è? 9.22. Dai bastardo. Oh, 9.23. Se vogliamo avere con i mano mano, se ci tendesse, ci vuole un amplificatore. Un lineare, via. Piano piano sta salendo in potenza, Vai, Marazzo, si ti venga. Struccava. Struccava, vamos. Lucarie, vedi domenica devi vincere il campionato, mi sono buche. Purtroppo l'Inter si è cagata all'ultimo. Non doveva mai cagata, gli ha dilinto lo scudetto. Ma vinto e travinto, purtroppo ho perso un bel di partite. Ha perso un bel di partite, a me mi dispiace per il Cagliari, ma purtroppo l'ha costretta. Se vuoi puntare sullo scudetto l'ha costretta a vincere, l'ha costretta. Ma ragazzi, a pescio l'Inter ha fatto un campionatissimo. C'è cagata con chi c'è un portiere, la battaglia del portiere avete messo un campionato. A vai andendo, a vai andendo al massimo. E adesso vediamo qua, se lo metti in base, non posso fare nulla io no. Tanto a me non mettono in busciacca, sì, sono tifoso dell'Inter, quello sì, però cosa ne posso fare, non ci posso fare niente. Speriamo, ma secondo me è del Milan qua. Vabbè, ma non è che sono due punti, dai. Ho fatto un bellissimo campionato. Però stai attento, mi. Lascia perdere quello che ha fatto prima, quello che ha domenica. Se l'Inter vince con la Sampdoria e il Milan perde o pareggia col Sassuolo, l'Inter vince il campionato, mi, non intendi? Sì, ho capito. Allora, guarda, il Milan ha fatto un pareggio anche. Ok. Se l'Inter